Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 2 maggio 2015. Triclò. La bici vince la sfida delle consegne in città. Dal Pony Express degli anni 80 a Triclò, il triciclo da carico che sta spopolando nelle città italiane. Protagonista di questa storia di innovazione è Hermes Ross, che nel 1983 aveva fondato l'azienda Pony Express, che puntò sugli scooter per le consegne. 28 anni dopo, nel 2011, lo stesso Hermes Ross ha lanciato a Padova Triclò, il triciclo da trasporto che piace sempre di più, non solo alle amministrazioni, ma anche a molti commercianti. Le consegne hanno infatti tempi ridotti, costi contenuti e non scontano le limitazioni del traffico, che in diversi centri storici italiani rischiavano di mettere in difficoltà le attività commerciali. E naturalmente questa scelta fa bene anche alla qualità dell'aria. Fin qui la notizia del 2 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto Triclò è partito nel novembre 2011 sfruttando anche le caratteristiche di Padova, città che punta molto sulla bicicletta. L'ideatore Hermes Ross. Pony Express trasportava documenti, i documenti oggi sono sempre meno perché ovviamente vengono spediti via email, via internet eccetera eccetera, e quindi diciamo che il Triclò oggi non porta solo documenti ma porta anche dei pacchi, sempre in città, quindi mantenendo un po' quella che è la missione che era di Pony Express, di facilitare le consegne in città in sostanza. Sta funzionando abbastanza bene nel senso dell'efficienza del servizio. Oggi le consegne, salvo un limite di volume che però non è così restrittivo, le consegne che può fare un triciclo in città sono superiori a quelle che si fa con un normale furgone, ovviamente con dei costi diversi, contenuti, senza inquinare e senza consumo di benzina che, come sa, costa moltissimo. Ci sono degli esempi europei in particolare che possono indicare che questa strada è quella da seguire? Ci sono in Francia, diciamo, delle realtà che già operano da diversi anni. La Petit Ren, ad esempio, in Francia opera dal 2004-2005, se non vado errato. Ci sono queste realtà, sono diffuse nel nord Europa, non solo in Francia, ma anche in Olanda, in Belgio, in Inghilterra, e di recente sono nate delle iniziative simili anche in Spagna. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.